Siamo fuggiti noi italiani sulla strada del vecchio zio Sam, cercando fortuna dagli americani, ma nessuno ci ha detto what do you want, man? Sono fuggiti spagnoli, francesi, inglesi, lasciando la loro terra invasa dalla guerra. Penso che nessuno abbia avuto qualcosa da dire. Scapperei anch'io nel caso scoppiasse una guerra di merda. Con che coraggio noi teniamo la porta chiusa, Lampedusa, decanta con noi mia bella Tusa, Lampedusa. Forse c'è qualcuno a cui dobbiamo qualche scusa, Lampedusa, decanta con noi mia bella Tusa. Ad uccidere la speranza, come fai a piombare i piedi a terra, come fai a stroncare l'innocenza, tu andresti rinchiuso in una cazzo di cella. Come fa un continente intero a stare tranquillo con il cuore in pace? Come fai a respingere uno straniero che ti chiede soltanto un po' di pace? Vai Franci! Lampedusa! Con che coraggio noi teniamo la porta chiusa? Lampedusa! Decanta con noi una bella Tusa, Lampedusa. Forse c'è qualcuno a cui dobbiamo qualche scusa, Lampedusa. E canta con noi mia bella Tusa. Questa canzone è stata scritta per dire soltanto una cosa, perché noi siamo per la parità dei diritti e pensiamo che tutti debbano avere la stessa possibilità. La stessa possibilità. La stessa possibilità.